Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io penso che al Senato dovrà essere cambiato qualcosa, francamente dovrà essere cambiato qualcosa. Capisco che possono esserci stati degli accordi, capisco che su alcuni di quei punti Berlusconi è molto affezionato, però dovrà farsi una ragione anche lui. Insomma, torna a parlare, come avete sentito, Pierluigi Bersani, ex segretario del PD dopo la convalescenza, poi si era già fatto vedere naturalmente nei giorni scorsi in Parlamento, però è tornato a dire, insomma, che non gli è andato molto giù quello che è successo ieri con l'aula della Camera, che ha affossato praticamente ogni emendamento sulle pari opportunità, sulla parità di genere nell'Italia, come soprattutto non è mai sembrato entusiasta, non lo è tuttora, Pierluigi Bersani, dell'accordo Renzi-Berlusconi, che evidentemente sussiste e regge. Domani è anche il super mercoledì, intanto si voterà fino a tardi, domani è anche il super mercoledì per Matteo Renzi, sapete, tutte le promesse, le aspettative, cioè c'è una grande attesa per domani, dove presenterà il Jobs Act, i tagli alla spesa, al cuneo fiscale, tagli alle tasse in generale, il rilancio dell'economia. Insomma, veramente sarà un giorno particolarmente impegnativo, cercheremo di capire se ci sono effettivamente, diciamo, pezzi d'appoggio a quello che annuncia Renzi. E poi c'è il cosiddetto derby, che continua come squadre di calcio ad alimentare tifoserie avverse, tra riduzione dell'IRPEF o riduzione dell'IRAP. Voi che cosa preferireste? Riduzione dell'IRAP quindi sulle aziende o dell'IRPEF sui lavoratori, la busta paga dei lavoratori? Per voi sempre a disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure messaggi al 349 238 6666. Mentre voi riflettete, io come sempre vi riassumo all'inizio la giornata. Legge elettorale volata, finale in aula, le preferenze bocciate per soli 35 voti. Governo, c'è la copertura sui 10 miliardi, il presidente di Confindustria Squinzi dice al presidente del Consiglio Renzi la nostra ragione e il bene del paese. Rimborsopoli a Bolzano, anche giocattoli erotici tra le spese dei consiglieri. Arte da Salomea Girasole a Milano in mostra i capolavori di Klimt. E per il calcio, serata decisiva per il Milan in Champions League per conquistare i quarti. Partiamo quindi dalla politica, dall'iter dell'Italia, come abbiamo detto, insomma, dopo ieri, dopo le tante deluse, abbiamo sentito ieri la senatrice Bonfrisco di Forza Italia, ma vedo qui ancora senatrici e deputate avvelenate sulle quote rosa. Insomma, il voto definitivo comunque alla Camera per l'Italicum è atteso per un non ancora definito orario, mi sembra, Betta Fiorito, si parla delle 10, di mezzanotte, avrai una notte lunga anche tu a Roma? Ciao Betta. Sì, ciao Roberta, la Camera sarà riunita fino a mezzanotte per approvare l'Italicum entro questa notte, per dare, insomma, un segnale anche a Renzi per domani, quando dovrà poi presentare invece il Jobs Act e quindi avrà dalla parte sua l'approvazione dell'Italicum. Ricordiamo, le cose principali approvate oggi sono quelle che è il cardine della legge fino a questo momento, cioè la soglia al 37% per ottenere il premio di maggioranza e lo sbarramento al 4,5% per ottenere seggi alla Camera, brevi liste bloccate in piccole circoscrizioni in cui vengono eletti 3-6 deputati. Ricordiamo anche che il premio di maggioranza verrà ottenuto dalla quella coalizione che al secondo turno conquisterà più voti dell'altra, cioè andranno al ballottaggio le due coalizioni che hanno raggiunto il 37%, ma non il 50%, perché ovviamente a quel punto non ci sarebbe necessità di ballottaggio, e il premio di maggioranza sarà il 15%. Ma la giornata è stata comunque anche oggi contrassegnata dai franchi tiratori, perché sappiamo che per quanto riguarda la battaglia delle preferenze, questa è stata la battaglia di oggi, sono stati respinti sì gli emendamenti, ma con dei margini molto molto molto stretti, come hai detto tu, 35% rispetto alle preferenze e addirittura solo 20 voti rispetto all'alternanza uomo-donna. Quindi diciamo che la situazione è che la maggioranza tiene, però poi sul voto segreto tornano i franchi tiratori e mancano moltissimi voti al PD. Quindi, insomma, è stata un po' anche oggi una giornata sul filo di lana, soprattutto per quello che dicevo, l'alternanza uomo-donna, l'emendamento presentato da Gregorio Gitti, Popolari per l'Italia. Agita sì. Molto questa questione della parità di genere, insomma, Betta Fiorito non lascia. Sì, si è riproposta in un altro modo, in un'altra forma, però ecco, per 20 voti non è passato, calcola che tutte le opposizioni hanno detto se passa l'emendamento Gitti, praticamente l'Italicum frana, cioè si verrà assolutamente ritirato, invece comunque la maggioranza ha tenuto e quindi si può procedere a questa approvazione finale in tempi molto molto brevi. Poco fa la seduta è stata sospesa per far riunire il comitato dei 9, che ricordiamo è il comitato che esamina poi gli emendamenti proposti in aula, e il Movimento 5 Stelle ha esaurito, secondo la Presidente Laura Boldrini, il proprio tempo, perché i tempi sono contingentati. Insomma, queste sono tutte tecnicismi parlamentari. Se tutto va come deve andare, l'Italia come viene approvato questa notte. Grazie, Betta Fiorito. Per la Camera dei Deputati. Solo per la Camera. Poi dopo per il Senato è tutta un'altra storia. Grazie, Betta. Ciao Betta e buonanotte fino a mezzanotte. Intanto i riflettori sono tutti puntati appunto sul Consiglio dei Ministri di domani, che varierà le attese misure economiche che tante aspettative stanno creando e anche qualche dubbio. Il governo accelera sul taglio del cuneo fiscale. Palazzo Chigi conferma l'impatto che la misura avrà domani in Consiglio dei Ministri. 10 miliardi quasi tutti sull'IRPEF, tranne, viene spiegato, qualche intervento selettivo come sgravi per chi assume a vantaggio delle imprese. Quanto alle coperture, 5 miliardi arriveranno dalla spending review, 3 dai risparmi della spesa per interessi sul debito e una quota dovrebbe arrivare dai tagli alle spese militari F-35 inclusi. Per la prima volta domani sarà messa nelle tasche degli italiani una significativa quantità di denaro, ha anticipato Renzi all'assemblea del PD. Poi una frecciata del premier alle parti sociali. I penultimatum di Squinzi sull'IRAP e l'eventualità di uno sciopero della Camusso, ce ne faremo una ragione. Parole del Presidente del Consiglio alle quali replica così il Presidente di Confindustria Squinzi. Noi abbiamo una ragione sola che abbiamo in mente precisa ed è il bene del nostro Paese. La capacità di ritrovare la ripresa, la capacità di ritrovare da creare lavoro. Renzi sia più equilibrato ed aiuti la coesione, commenta dalla CISL Bonanni, che boccia poi il Jobs Act, non crea posti di lavoro. Su quest'ultimo intanto il governo è intenzionato a procedere con cautela, di qui l'utilizzo di un disegno di legge delega. Tempi più brevi invece per il piano case e per l'edilizia scolastica. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ministro Padoan intanto, ministro dell'economia a Bruxelles per l'Ecofin, ministro che ha detto l'Unione Europea dopo la crisi guardi alla crescita. Dopo 9 trimestri consecutivi, vale a dire oltre 2 anni di segno meno, il PIL italiano è tornato positivo, sia pure di poco. Nell'ultimo trimestre 2013 ha infatti segnato un più 0,1%. Lo rileva l'Istat, ricordando che l'ultimo trimestre in crescita su base congiunturale per il nostro prodotto interno lordo era stato il secondo del 2011. Per l'economia italiana arriva dunque la prima boccata d'ossigeno, anche se presto per parlare di ripresa, visto che, considerando l'intero 2013, il PIL ha subito una caduta dell'1,8%. C'è comunque attesa per le stime sul primo trimestre 2014, che potrebbero ufficializzare l'uscita dalla recessione dell'Italia. Previsioni in questo senso sono state fatte dall'OCSE, secondo cui la nostra economia crescerà nei primi 3 mesi di quest'anno dello 0,7%, per poi rallentare nel secondo trimestre a 0,1%. Di rilievo l'indicazione OCSE di una crescita dello 0,5% nell'ultimo trimestre 2013, al di sopra delle stime precedenti. Con questi dati l'Italia non è più il fanalino di coda del G7, posizione che al momento cede al Canada. Proprio riferendosi al PIL nazionale, il nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan, al suo primo Ecofin a Bruxelles, ha definito la stima dell'OCSE più attendibile rispetto a quella più ottimistica che era stata avanzata dal governo Letta. Il mio atteggiamento è di essere prudente, preferisco tenermi basso, ha riferito l'ex capo economista dell'OCSE. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E scoppia il caso della Tirreno Power, in Liguria adesso la centrale a carbone è stata sequestrata e poi ne parleremo con un responsabile di Legambiente della Liguria, rischia di diventare un Ilva 2 con centinaia di morti probabilmente. E adesso all'estero con la crisi ucraina, l'assemblea di Sebastopoli, quindi della Crimea, oggi ha votato in attesa del referendum di domenica prossima sull'annessione alla Russia. Intanto il deposto presidente ucraino Yanukovych accusa a Kiev sono in azione forze ultranazionaliste e fasciste che vogliono scatenare la guerra civile. E torniamo sulla politica italiana, ma quella locale è sotto accusa per le spese. Questa volta l'indagine riguarda il Consiglio Provinciale di Bolzano ed è relativo a spese ancora più particolari del solito. La politica è passione, ma a volte può essere anche erotismo, almeno secondo il gruppo consigliare provinciale di Bolzano dei Freiheitlichen, compagine germanofona di estrema destra. Infatti, nel corso di un'inchiesta avviata dalla procura sulle rendicontazioni dei gruppi politici, è stato trovato uno scontrino da 64,92 euro per l'acquisto di un vibratore e di altri due oggetti a uso erotico non specificati in un negozio di una celebre catena tedesca di articoli sexy. Lo scontrino però non compare negli atti dell'inchiesta, come spiega il sostituto procuratore Giancarlo Bramante, titolare dell'indagine sull'uso dei fondi pubblici a disposizione dei gruppi, 750 euro annui. Sullo scontrino si è poi alternata una serie di dichiarazioni da parte dei Freiheitlichen. Dapprima una dei leader, la consigliera Ulli Mayr, aveva parlato di un regalo per fare uno scherzo di compleanno a un collega. Poi è arrivata la smentita del partito in una nota: le notizie non corrispondono ai fatti. A quel punto la Mayr non è stata più raggiungibile. I Freiheitlichen si dicono comunque disponibili a qualsiasi chiarimento se richiesto da procura oppure guardia di finanza. Il gruppo ha raggiunto nelle ultime elezioni il 17,9% ed è la principale forza di opposizione nel parlamentino della provincia autonoma. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'indagine sulla terra dei fuochi, inquinata solo una piccola percentuale dei terreni. Quello presentato oggi dal governo rappresenta un primo passo per arrivare alla bonifica di un territorio avvelenato dalle ecomafie con 20 anni di sversamenti illegali di rifiuti, una prima mappatura dei 57 comuni, compresi fra la provincia di Napoli e Caserta, che fanno parte della cosiddetta terra dei fuochi. Le aree sospette sono il 2% del totale, 21,5 km quadrati, ha rivelato il ministro dell'Agricoltura Martina. Sono stati individuati in particolare 51 siti per i quali risulta necessario prioritariamente proporre misure di salvaguardia per garantire la sicurezza delle produzioni agroalimentari per un totale di 64 ettari di suolo agricolo. Entro 90 giorni verranno effettuate nuove indagini per indicare i terreni interdetti alla produzione alimentare. Per i prodotti ortofrutticoli provenienti da quelli classificati a rischio è già scattato il divieto di vendita, ha spiegato la responsabile della salute Lorenzin. Noi abbiamo già approvato lo screening di massa su questi territori, abbiamo stanziato 50 milioni di euro con l'obiettivo di dare certezze alla popolazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora l'inchiesta sulle baby squillo di Roma. Elementi incontrovertibili graverebbero sulla posizione di Mauro Floriani, marito della parlamentare Alessandra Mussolini, indagato per la prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta della Procura Roma sulle studentesse che si prostituivano, vi ricordate, in un appartamento ai Parioli. Già ufficiale della Guardia di Finanza, Floriani fa parte di una lista di 20 clienti, su 40 complessivamente identificati dai carabinieri, iscritti nel registro di indagati sulla base di una lunga serie di accertamenti investigativi, tra cui anche intercettazioni. Siamo sulla cronaca: i giudici del Tribunale per i minorenni di Catanzaro hanno condannato a 22 anni di reclusione Davide Morrone, il 18enne che nel maggio del 2013 ha ucciso la fidanzata Fabiana Luzzi di 16 anni, bruciandone poi il corpo quando la ragazza era ancora viva. La sentenza è stata emessa dopo oltre 3 ore di camera di consiglio. Passiamo all'arte. Dalla Salomè al Girasole, i capolavori di Gustav Klimt sono in mostra a Milano da domani al 13 luglio a Palazzo Reale. Nel 2012, per i 150 anni dalla nascita, Vienna ha celebrato con una grande esposizione uno dei suoi maggiori artisti, Gustav Klimt, il raffinato protagonista della secessione viennese che rinnovò l'arte europea tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. E oggi Vienna, nell'anno che precede l'esposizione universale, Expo 2015, ha scelto Milano per una sorta di affinità elettiva per proporre negli spazi di Palazzo Reale una nuova mostra dedicata a Gustav Klimt e intitolata Alle origini di un mito. Fino al 13 luglio, grazie a questa esposizione che racconta come si è formato questo genio indiscusso, gli affetti familiari, gli anni della scuola di arti applicate di Vienna e le sue esperienze giovanili, si potranno vedere alcuni dei suoi famosi ritratti di donne, i suoi paesaggi inconfondibili e alcune sue opere incompiute. 20 oli originali sono quelli esposti qui a Milano, non pochi se si pensa che sono solo un centinaio in tutto il mondo i suoi dipinti e che purtroppo sono molte le opere andate distrutte di Klimt in un incendio per mano dei nazisti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Organizzata da Palazzo Reale e dal Museo Belvedere di Vienna con 24 Ore Cultura, Gruppo 24 Ore e Artemisia Group e promossa dal Comune di Milano, l'ingresso alla mostra costa 11 euro, audio guida compresa. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo ora agli artisti del pallone, invece, diciamo così, Dario Ricci e il Milan che stasera in Champions. Eh sì, allora. dici bene Roberta, perché pochi istanti fa c'è stato il capolavoro di Riccardo Cacà che ha sancito l'1-1, ma andiamo con ordine. Milan che deve rimontare l'1-0 dell'andata a San Siro e si mette subito male dopo 3 minuti, Atletico Madrid in vantaggio, un cross dalla destra, Rami beffato dalla parabola, alle sue spalle interviene Diego Costa che in tocco acrobatico di sinistro batte Abbiati, 1-0 per l'Atletico Madrid. Il Milan ci mette un po' per reagire, ma quando lo fa trova subito la chiave giusta, triangolazione Balotelli, Poli, il cross sul secondo palo, interviene Kakà di testa a siglare l'1-1, il 102esimo gol del brasiliano con la maglia rossonera, 33esimo di gioco, 1-1 e partita e qualificazione apertissima, Roberta. Aperta, vedremo poi come si chiude man mano. Grazie Dario Ricci, qui si chiude anche questa prima parte di Effetto Notte, ci ritroviamo tra poco con gli ospiti per approfondire alcuni argomenti. Vedo già su IRAP IRPEF le diverse squadre, dice Walter, personalmente preferirei l'IRAP perché è vero che quei 10 miliardi tornerebbero subito in circolo con un aumento dei consumi, ma fra IVA, tasse e altro circa il 50% tornerebbe nelle case dello Stato dimezzandone il beneficio. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte e anche i messaggi al 349-238-6666. Tra poco ci sarà un ospite che ci aiuterà un po' a leggere la giornata di ieri e la giornata di oggi, insomma a cavallo tra le due giornate, l'iter dell'Italico. Intanto vi ricordo brevemente quali sono stati i fatti principali di oggi. Renzi alla prova del taglio IRPEF domani, solo linee generali, piano da 10 miliardi, il governo ancora al lavoro sulle misure, c'è molta attesa per il Consiglio dei Ministri. E poi regge il patto sull'Italicum, ma sulle preferenze rischia il KO Franchi Tiratori alla Camera, passano le soglie e le liste bloccate, no alle preferenze per soli 35 voti. Rimborsavoli a Bolzano anche giocattoli erotici tra le spese dei consiglieri. E per il calcio avete sentito che è una serata decisiva per il Milan in Champions League contro l'Atletico Madrid per conquistare i quarti. E saluto con molto piacere la professoressa Elisabetta Gualmini, bentornata professoressa. Buonasera. Presidente dell'Istituto Cattaneo, politologa, editorialista della Stampa. Allora, diciamo la notizia grossa di ieri è stata questa, questo dramma sulle quote rosa, sulla parità di genere. Quando si parla di quote, insomma, molti storcono il naso. In realtà è una questione che è stata definita almeno dalle deputate che si sono tanto battute, 90 a livello trasversale tra Forza Italia, Nuovo Centrodestra, PD, SEL, eccetera, eccetera. Una questione di giustizia. Anche diversi uomini l'hanno difesa in questo modo. Ci sono anche pareri contrari. Fatto sta che alla fine tutti e tre emendamenti che riguardavano ieri la parità di genere sono stati affossati dall'aula della Camera. Si è dato molto colpa, cioè, almeno Forza Italia, diciamo, l'ha detto a viso aperto, Silvio Berlusconi era contrarissimo, è stato definito partito maschilista, però nel segreto delle urne anche il PD insomma ha fatto il suo, pare che mancassero 60 voti rispetto a quella che doveva essere la posizione del Partito Democratico su questo tema. È strettamente legato poi anche a quello che è successo oggi, perché poi si è cercato di far rientrare un po' questo argomento dentro la doppia preferenza, professoressa Gualmini. Quindi lei come ha letto questa vicenda per portarci poi a quello che è successo oggi? Certo, ma dunque il tema della rappresentanza di genere ovviamente è di assoluta rilevanza, soprattutto in un paese tendenzialmente conservatore come il nostro. Personalmente ritengo che inserire le cosiddette quote, anche se è un termine così non molto simpatico, dentro alla legge, quindi per legge, sia un vincolo forse troppo rigido. Penso che negli statuti e nei regolamenti dei partiti si possa appunto e si debba probabilmente regolare la parità di accesso alle cariche pubbliche e alla rappresentanza nelle istituzioni. Tra l'altro, quando si citano i famosi paesi nord europei, ecco, proprio lì non ci sono, quindi penso alla Norvegia, alla Svezia, alla Finlandia, alla Danimarca, all'Islanda, non ci sono le quote per legge, ma sono sempre state inserite dentro gli statuti dei partiti. Oggi il PD e anche SEL le hanno, ad esempio. Quindi non è detto, ecco, io non leggo diciamo quel vincolo per legge come una cosa assolutamente necessaria, anche se capisco che il tema è rilevante. Certamente ci sono stati i cosiddetti maschi tiratori, come ho letto appunto su alcuni siti di alcuni giornali, e quindi anche all'interno del PD alcuni hanno votato contro. Io penso più che altro che si debba dare una lettura di tipo politico, cioè chi ha votato appunto, insomma, c'è stato un tentativo di votare forse contro Renzi e contro l'accordo con Berlusconi, quindi è stato per lo più un voto anti-italicum. Cioè, secondo lei non erano sincere e convinte della loro battaglia queste 90 deputate, ma c'era dietro, come dice qualcuno, una specie di complotto contro l'accordo Renzi-Berlusconi? Ma in parte penso che ci sia una fronda interna al PD, soprattutto dentro ai gruppi parlamentari, che come sappiamo non riflettono, diciamo, l'assetto della nuova segreteria, ma sono per lo più legati appunto alla gestione bersaniana, ecco, del PD, per cui c'è stata e c'è secondo me una fronda che tenta un po' di appunto creare così qualche impiccio e qualche ostacolo, di mettere qualche ostacolo a questa grande riforma firmata da Renzi e Berlusconi. Insomma, sicuramente c'è un sentimento anti-berlusconiano dentro al PD. Anche se devo dire, professoressa Gualmini, che ieri non soltanto Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, ex ministra, sul Corriere della Sera diceva sono maschilisti anche all'interno del nostro partito, vogliono conservarsi la poltrona perché nella riforma del sistema per le elezioni europee hanno votato i nostri stessi parlamentari maschi a favore dell'alternanza di genere, eccetera. Per quanto riguarda il Parlamento italiano, no, perché si leverebbero le loro poltrone da sotto il sedere. Quando riguarda loro, allora diventa un problema. Sicuramente c'è una maggiore difficoltà rispetto all'Europa, che viene comunque percepita come un'istituzione lontana, e per esempio anche le quote nei consigli di amministrazione delle società private, eccetera, sono cose forse percepite più estranee alla propria poltrona. Questo è vero. È chiaro che in Forza Italia c'è un dibattito anche interno al partito, quindi lì effettivamente la parità è per statuto, comunque per regolamento, non si è mai praticata, quindi lì è comprensibile che ci sia un dibattito. Ecco, dentro al PD francamente queste norme sono già state, insomma, messe in atto più volte, penso anche alle primarie, per cui lì vedo più una opposizione, una manifestazione di tipo politico, insomma. Anche se ieri poi c'era qui proprio effetto notte Cinzia Bonfrisco, sempre di Forza Italia, senatrice, anche lei avvelenatissima, arrabbiatissima con i suoi colleghi maschi per come sono andate le cose, era di quella parte delle donne di Forza Italia che erano favorevoli alla parità di genere. Ma le faccio sentire solo brevemente, tra gli ospiti di ieri c'era anche Antonio Pulito, direttore del Corriere del Mezzogiorno, editorialista del Corriere, questa era la sua posizione su quell'affossamento. L'argomento che sentivo che tu prima riportavi di alcuni lettori, che deve valere il merito, non il sesso, non il genere, sarebbe un argomento convincente se in Italia ci fosse un sistema per il quale gli elettori possono scegliere i propri rappresentanti. Se ci fosse la preferenza o il collegio uninominale, tu potresti dire viene eletto chi viene scelto dal popolo, donna, uomo che sia, dipende dal merito. Ma avendo noi le liste bloccate, le avremo anche in futuro nella prossima legge, e avendo l'ecosistema che diceva giustamente la senatrice Bonfrisco, cioè col fatto che alla fine viene eletto uno, al massimo due per collegio, questo argomento non regge. Allora noi siamo tenuti, secondo me, saremmo stati tenuti a introdurre nella legge una forma di salvaguardia della parità di genere che consenta appunto alle donne, che sono una parte ormai molto importante della società italiana, e non solo della società italiana, ma anche, diciamo, della vita politica italiana, di avere un accesso stabilito, garantito in queste liste, perché i partiti sono diretti dai uomini, diciamoci la verità. Ecco, questa è la verità, Elisabetta Gualmini, alla fine? Ma non capisco bene gli argomenti, sono molto conosciuti, non sono completamente d'accordo. Certamente con le preferenze si sceglie il proprio candidato, però con questi collegi plurinominali e liste corte, in verità saranno indicati i nomi e i cognomi di almeno 5 o 6 candidati, quindi non uno o due. E quindi lì starà poi ai partiti, per esempio se il PD farà le primarie poi per selezionare le candidature, loro le fanno con col 50% comunque con la doppia preferenza uomo-donna, e lì le donne non possono non inserirle. Quindi certamente c'è ancora un potere di gestione maschile dei partiti, però io penso che in realtà le donne si stiano facendo avanti. Adesso in Parlamento abbiamo il 31% di rappresentanza femminile, siamo sopra la Francia, siamo sopra alla Gran Bretagna e pari praticamente alla Germania. Quindi insomma mi sembra che il processo sia in atto e che debba essere una discussione davvero dei partiti, non forzare dentro ad una legge, anche perché potrebbe capitare che le donne siano ancora di più del 50%, cioè paradossalmente, magari. Professoressa, lei è tifosa? Poco. Ahimè, però ho un figlio piccolo molto tifoso. Per cosa? Per quale squadra? Per la Juve. Ah, ecco, no, perché c'è il Milan Atletico Madrid. Abbiamo forse un aggiornamento? No, è caduto dall'emozione il nostro cronista sportivo, quindi lo riprendiamo dopo. Invece le faccio sentire, professoressa Gualmini, che cosa ha detto Bersani oggi, che è ritornato a parlare, a dire la sua, l'ex segretario. Sentiamo. Io penso che il Senato dovrà essere cambiato qualcosa, francamente dovrà essere cambiato qualcosa. Capisco che possono esserci stati degli accordi, capisco che su alcuni di quei punti Berlusconi è molto affezionato, però dovrà farsi una ragione anche lui. Ha sentito? Sì, assolutamente, avevo già sentito, insomma, letto le dichiarazioni di Bersani, ma sicuramente al Senato, ecco, ne vedremo delle belle, perché già se alla Camera, dove il PD comunque ha un'ampia maggioranza, il tutto è passato, alcuni emendamenti con 20 voti di scarto, quindi immaginiamo che al Senato possa succedere un po' di tutto, però bisogna cercare di capire, cioè, che cosa vuole il PD, nel senso che secondo me il PD è ancora un po' sotto shock per la gestione leaderistica di Renzi. Cioè Renzi stamattina ha serrato le file, ha detto chiaramente c'è un accordo, chi vota contro poi lo va a spiegare fuori nel paese, quindi è chiaro che lui vuole salvare questo accordo con Berlusconi e portare a casa questa riforma quantomeno alla Camera, per cui secondo me alla fine anche il PD tutto sommato si adeguerà, perché anche la fronda anti-Renzi in realtà penso che abbia interesse a rimanere in vita e a sopravvivere in Parlamento almeno fino al 2018, e questa è un po' un'arma che è nelle mani a Renzi, insomma. Mi dico un'ultima cosa, professoressa Gualmini, quindi poi passerà l'iter di questa riforma al Senato, proprio il Senato, sì, che poi dovrebbe essere abolito, sì, insomma, strano, no, questa cosa che debba votare. No, innanzitutto c'è, cioè, il paradosso è che il Senato deve votare la non riforma, cioè deve di fatto approvare una legge elettorale che non lo riguarderà, esatto, e non lo riguarda più, quindi è un po' un pasticcio, devo dire che anch'io ho criticato alcuni aspetti di questa legge elettorale, nel senso che secondo me sarebbe stato meglio portarla a casa tutta intera e non un mezzo italicum, perché ecco, io davvero vorrò vedere come i senatori riusciranno ad uccidere metaforicamente loro stessi, quindi davvero al Senato la partita sarà interessante, insomma. Karakiri, insomma, staremo a vedere. Grazie, esatto, professoressa Gualmini. Grazie a voi. Grazie, buona serata, buona continuazione. E come continuata invece la partita lo chiedo a Dario Ricci, l'abbiamo ripreso, si è ripreso Dario Ricci, sì. Eccomi qua, mi sono, certo, ripreso. Beh, partita interessante, dicevate, partita interessante sicuramente anche quella del Vicente Calderon. Roberta, siamo sul 2-1 per l'Atletico Madrid quando siamo già nel recupero del primo tempo, ci eravamo lasciati sull'1-1 siglato dalle reti di Diego Costa al terzo minuto e al 27esimo dal colpo di testa di Kakà. Milan ancora vicino al vantaggio, sempre con Kakà e sempre di testa al 36esimo, pallone fuori di pochissimo, al 40esimo però sponda ancora di Diego Costa per il turco Arda Turan, il tiro dal limite dell'area che sembra innocuo, la deviazione di Rami che però beffa imparabilmente Abbiati e Atletico Madrid di nuovo in vantaggio, che un minuto dopo su splendida rovesciata di Raul García ha sfiorato il 3-1. Sta finendo quindi in questi istanti il primo tempo, Atletico Madrid 2 Milan 1, con questo risultato gli spagnoli sarebbero qualificati, al Milan serve la vittoria con due gol, sostanzialmente la situazione con cui la partita era iniziata, ma insomma già se ne sono andati via 45 minuti. Il tempo corre, grazie Dario Ricci, corre anche per noi qui. E quindi ci prendiamo questa pausa di pubblicità, poi parleremo delle questioni economiche, di cosa dice l'Istat, dei nostri conti, dell'Ocse, eccetera, eccetera, e del derby a proposito di partite tra IRAP e IRPEF. Vedo ancora i vostri messaggi al 349-238-6666 e soprattutto sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, la pagina Effetto Notte, pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, su che cosa preferireste che si tagliasse, l'IRAP o l'IRPEF, anche se sembra che Renzi un po' la decisione l'abbia presa per domani, dovrebbe annunciarla, però continua a esserci tensione tra il governo e le parti sociali. Poi leggerò un po' i vostri messaggi perché tra poco tratteremo questo aspetto, ma abbiamo fatto una pausa, quindi vi ricordo, se aveste acceso la radio in questo momento, quali sono state le notizie principali di oggi. Naturalmente l'iter dell'Italicum, della legge elettorale, volata finale in aula, le preferenze bocciate per soli 35 voti. Governo, c'è la copertura sui 10 miliardi, il presidente di Confindustria Squinzi dice al premier Renzi: la nostra ragione è il bene del paese. Rimborso a Poli e Bolzano, anche giocattoli erotici tra le spese dei consiglieri. Padoan sprona l'Europa, dopo la crisi pensi alla crescita, dice nel 2014 arriva la ripresina. E per il calcio c'è il Milan in Champions League contro l'Atletico Madrid, per il momento è l'Atletico che guida per 2-1. Non so se dispiace ad Alberto Rioli, ti dispiace che sia l'Atletico Madrid? No, come ti ho detto anche l'altra volta, ahimè, il calcio a me non è che... Ah già, scusami Alberto, scusami, è vero, hai ragione, e avevo anche apprezzato questo aspetto, seppure io vado, bacio, eccetera, eccetera, per chi ama il calcio, ma io stessa, insomma, spesso ci faccio dell'ironia. Alberto, invece ecco, parliamo di questioni serie e concrete che ci riguardano tutti. Allora, secondo i dati Istat c'è questa ripresina, chiamiamo la ripresina senza allargarci troppo, però intanto l'OCSE dice attenzione che il Sud Europa, quindi compresa l'Italia, rischia la deflazione. Ci spieghi questi due aspetti contrastanti, come stanno insieme? Sì, la ripresina in Italia è assai Ina. Molto ina. In verità le previsioni anche internazionali sono state corrette a ribasso, quindi anche l'aumento di produzione industriale dell'1% è stata una cosa che comunque dà l'idea di un motore un po' imballato, che non è ancora perfettamente a pieni giri, e purtroppo la situazione dell'Italia è questa: è entrata con questo primo trimestre di crescita del prodotto interno lordo del +0,1, noi tutti abbiamo gioito, ma si tratta di +0,1, quasi un nulla, quasi vicino all'errore statistico. Ecco, e indubbiamente quando questi numeri poi si traducono in persone, in situazioni, in cose da fare o fatte, lì casca l'asino, nel senso che poi il paese è ancora quello dell'anno precedente, purtroppo, anche se formalmente siamo fuori dalla recessione. Spieghiamo anche Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, se in che senso, cioè, che cos'è esattamente la deflazione, no? Si parla di inflazione, poi si può finire dall'inflazione alla deflazione. Qual è il meccanismo? La deflazione è l'incremento negativo dei prezzi e delle cioè si abbassano, che si abbassano i prezzi. Meno, teoricamente si abbassano. E uno dovrebbe dire viva, è viva. Purtroppo no, perché questo è solo sintomo del fatto che praticamente si congelano i consumi, l'economia non gira più il gioco normale, fisiologico, tra domanda e offerta. E quindi si cerca di abbassare i prezzi per rilanciare i consumi. Esattamente, questo dato negativo è un estremo tentativo di far ripartire l'economia, ma è anche il sintomo del fatto che l'economia è quasi in stato preagonico. È una situazione che i giapponesi hanno conosciuto molto bene, che è durata per oltre un decennio ed è stata per loro un grande flagello. E certo non vorremmo conoscerla noi, è una situazione che può riguardare alcuni dei paesi europei, non a caso è oggetto sempre di confronto anche all'interno del board della BCE, Draghi più volte ha detto che non è alle viste una situazione di deflazione, ma sono quelle affermazioni che un banchiere centrale deve fare per calmare i mercati e per non innescare meccanismi di aspettativa negativa che poi creerebbero effettivamente quelle condizioni che per un paese come il nostro diventerebbero drammatiche. Senti, ti leggo un po' che cosa scrivono le ascoltatrici e gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito dell'IRAP e dell'IRPEF, no? Squinzi ha detto meglio rilanciare un po' i posti di lavoro abbassando l'IRAP che dare poche manciate, insomma, di spiccioli in busta paga. Altri la pensano diversamente. Ti leggo, per esempio, scrive Ciro: considerato che dal 2015 in poi entrerà in vigore la parte del Fiscal Compact che impone ai paesi dell'Eurozona di ricondurre il debito pubblico al 60% del PIL entro 20 anni, ragionare su riduzioni nel 2014 di IRPEF o IRAP mi sembra davvero proibitivo. Massimo parteggia per l'IRPEF. Elena dice: direi IRAP se poi le aziende assumessero, ma siccome non mi fido più di tanto dico IRPEF, quindi parlo con una e arriva l'altra. Vittorio: IRPEF più si ha più si spende. Vittorio: tifo per il taglio della spesa pubblica pubblica improduttiva. Solo qui si può ripartire per il taglio delle tasse, viceversa si toglie da una parte per aumentare dall'altra. Laura preferisce l'IRAP, dice meno costo del lavoro e degli interessi bancari. Rosario invece preferisce l'IRPEF, bisogna sollecitare la domanda interna, scrive Massimo. IRPEF, meglio rimpolpare le buste paga di chi non riesce a mettere in tavola un piatto di minestra per i propri figli. E tu cosa dici? Ma devo dire, risposte complesse, tutte intelligenti. Sì, che modestamente, sono, vero? Potrebbero fare altrimenti perfetto. Ai nostri ascoltatori, effettivamente. Perché purtroppo è una banalizzazione quella del derby tra IRPEF e IRAP, che non è la cosa più corretta. Cioè, qui si tratta di abbattere il cuneo fiscale che incide sia sulla parte delle imprese sia sulla parte dei lavoratori. Certo. Però avendo bene davanti qual è l'obiettivo? L'obiettivo sì è rilanciare i consumi, uscire da questa stagnazione della domanda interna, ma è anche creare condizioni strutturali di sviluppo duraturo in modo che la fiducia possa davvero ritornare. E il grande dilemma è, ha più senso dare 60 euro al mese sì e no a uno che prende un po' meno di 25.000 euro o trovare il lavoro ai suoi due figli disoccupati? Con cosa si rilancia di più la domanda? Probabilmente trovando il lavoro ai due figli disoccupati si consuma molto. Quindi abbassando di più l'IRAP, tu dici, ma siamo sicuri che poi quei soldi vengono reinvestiti per infatti, assunzioni? È una delle osservazioni corrette che faceva un'ascoltatrice, mi pare. Sì, sì, sì. Sarebbe oggetto, questo sì, di un intervento del governo, sentite le parti sociali, di rendere cogente un intervento che aiutasse le imprese ad abbattere il cuneo fiscale che le rende poco competitive, a vincolarlo o a nuovi investimenti certificabili, esigibili e visibili, o a, meglio ancora, a nuova occupazione, come tutti vorrebbero peraltro. Ci sono delle possibilità di abbinare queste due variabili in modo anche stringente, avendo poi cura da parte del governo di controllare che ciò accada effettivamente, quindi questo dovrebbe essere l'oggetto del confronto anche tra le parti sociali e il governo, ma mi pare di capire che Renzi in questa fase perlomeno si sia buttato su un'idea un po' propagandistica di una grande svolta di sinistra contro la povertà, mi sembra più lo slogan di uno che guarda le elezioni europee che non a chi guarda la competitività italiana in Europa, che è uno degli ultimi paesi, come ben sappiamo. Sentiamo anche, sono state citate le privatizzazioni dal viceministro dell'economia Morando, sentiamo cosa ha detto. Il nuovo governo ha esplicita intenzione, che troverà manifestazione nei documenti di programmazione che ci apprestiamo a presentare in Parlamento secondo le tempistiche e le procedure fissate, ha intenzione di elaborare, di riaprire una stagione lunga di valorizzazione / alienazione, privatizzazione del patrimonio. Una stagione che abbia, probabilmente non avrà la stessa intensità per dimensioni che ha avuto quella che ci sta alle spalle, a cui ho fatto riferimento nella prima parte della introduzione, ma dovrà essere comunque concentrata nel tempo con l'obiettivo di non realizzare la riduzione del volume globale del debito, ma di concorrere a favorire un processo di riduzione del volume globale del debito. Quindi privatizzazioni, Alberto Rioli, vista sì, possibilmente. È una cosa molto importante, perché il vero modo per uscire da questa morsa infernale di questo debito che ci sta strangolando e che ci costringe a pagare una bolletta, chiamiamola così, di oneri di servizio al debito di 90 miliardi l'anno, solo leggermente corretta dal fatto che adesso vanno un po' meglio gli spread, quindi potrebbero diventare un po' meno, ma comunque sempre cifre monstre che se utilizzate per lo sviluppo potrebbero creare milioni di posti di lavoro solo loro effettivamente, perché noi stiamo parlando di manovre che sono all'ordine di 10-15 miliardi quando ne paghiamo 90 solo di interessi. E appunto aggredire in modo netto, definitivo direi, lo stock del debito è molto importante, solo che si scontra naturalmente con alcune condizioni di mercato e anche strategiche. Non puoi chiaramente svendere società strategiche come possono essere Enif e Meccanica, legate appunto alle variabili dell'energia, dell'approvvigionamento, dell'indipendenza energetica, quindi non le puoi regalare al primo che passa, evidentemente devi mantenere comunque un controllo. Dall'altra devi alienare gran parte del patrimonio immobiliare pubblico, gli asset immobiliari, i famosi asset immobiliari pubblici, che oggi sono però nelle competenze degli enti locali, e questo ha reso sempre molto complicato il rapporto fra centro e periferia nella gestione di questi di questi beni immobili, parliamo delle caserme, ma non solo delle caserme. Mentre se si definisse finalmente un protocollo rapido, e anche qui c'è da fare un po' di lotta alla burocrazia e all'incrocio tra poteri, per cedere a chi li sappia valorizzare nel mondo del privato e non solo questo tipo di immobili, probabilmente lo Stato ci guadagnerebbe. Però bisognerebbe fare come ha fatto la Germania. Non si è fatta troppi problemi quando ha dovuto fare la stessa operazione per unificare Est e Ovest, vendendo parte del patrimonio pubblico dell'Est. Lo ha svenduto, lo ha tranquillamente svenduto. Però noi rischieremo poi magari il danno erariale se qualcuno si prende la briga e firma l'atto con cui svende un immobile pubblico, quindi ci sarebbe il grande problema. Non lo farebbe nessuno perché rischi la galera. E invece no, bisogna stare alle condizioni del mercato effettivo. Grazie Alberto Urioli. Grazie Alberto, buon proseguimento al lavoro. Ci sono aggiornamenti per chi viaggia, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che sono quelle principali: l'Italia, concorrenze alla prova della Camera, si dovrebbe votare almeno sino a mezzanotte. E poi domani parlerà Renzi del taglio dell'IRPEF, solo linee generali, ci saranno il Consiglio dei Ministri, tanto atteso, un piano da 10 miliardi. E poi Padoan, il ministro dell'Economia, sprona l'Europa, dopo la crisi pensi alla crescita. E poi avete sentito che c'è il Milan in Champions League. Ma parliamo adesso, prima del Tirreno Power, una vicenda molto particolare, drammatica, parliamo di Europa, con la battaglia dei semi a Strasburgo. Il 92% degli italiani e degli europei si sono riconciliati con la politica agricola comune, che insieme alle aree rurali considerano ormai un elemento importante per il loro futuro. Non è solo per gli agricoltori, ma anche per gli italiani, perché offre benefici l'agricoltura agli oltre 500 milioni di cittadini nell'Unione Europea. E in questo quadro che oggi al Parlamento di Strasburgo è andata in scena quella che potremmo definire la battaglia delle sementi. Il Parlamento Europeo ha bocciato la proposta della Commissione quasi all'unanimità, su proposta del Presidente della Commissione Agricoltura De Castro. Gli europarlamentari accusano il commissario all'agricoltura di non rispettare le specie locali, contro il rispetto della biodiversità. Una messa al bando, secondo gli eurodeputati, insomma, dell'orto di casa. Anna Migliorati ha sentito proprio Paolo De Castro, sostenitore della battaglia dei semi. Europa 24 notte. Verso le europee. Dopo l'ennesima mia richiesta a nome della Commissione Agricoltura al commissario Antonio Borg di ritirare la sua proposta sui semi, le piante di propagazione, e dopo l'ennesimo rifiuto, nonostante l'ampia maggioranza in Commissione Agricoltura, lui non ha voluto ritirare, oggi in aula abbiamo confermato con un voto di rigetto di una maggioranza straordinariamente ampia, e quindi la prima lettura finisce qui. Ora la palla passa al Consiglio. Io credo e spero che il Consiglio abbia lo stesso atteggiamento del Parlamento europeo, soprattutto perché era così ampio, tutti i gruppi politici hanno votato in questa direzione, e quindi il Consiglio costringerà a questo punto Tonio Borg a ritirare la proposta e avanzare una nuova proposta nella prossima legislatura. Il problema qual è? Il rispetto della biodiversità? Ma diciamo che i problemi sono tantissimi, ci sono alcuni aspetti che hanno interessato molte ONG e hanno creato anche molta pressione mediatica intorno al tema dei piccoli produttori di semi. Ma c'erano anche grosse problematiche inerenti alla messa insieme di 12 direttive europee con un unico regolamento. Cioè, noi abbiamo oggi, su tutta la materia dei semi e delle piante di propagazione, abbiamo 12 direttive che funzionano. Ogni paese le ha tradotte in leggi nazionali, in legislazione nazionale diverse, che riguardano le piante di vite, di agrumi, di olivo, che funzionano, che non hanno creato problemi o difficoltà. Ora la Commissione in un colpo le azzera tutte e fa un unico regolamento, quindi obbligatoriamente applicabile in tutti e 28 Stati membri, tra l'altro in finire di legislatura, perché mancano due mesi al voto, cioè la maggioranza delle aziende produttrici di semi, di piante di propagazione sono piccole e medie imprese che non si sentivano, o meglio, si sentivano molto preoccupate di questa direzione che aveva impresso la Commissione. Il rischio non è quello che appaia un'Europa che difende le grandi multinazionali e non i piccoli? Esattamente, questa è la preoccupazione che avevamo, il motivo per cui l'abbiamo bocciato, e abbiamo avuto la sensazione che la Commissione lavorasse per le multinazionali senza preoccuparsi di un sistema di piccole e medie imprese che oggi caratterizza il mercato europeo sia per i semi che per le piante da propagazione. prima il budget, ora l'agricoltura, sono sempre più i terreni di scontro tra la Commissione e il Parlamento, ma che sta succedendo? Sono le elezioni in vista o c'è qualcos'altro? Beh, diciamo che c'è sicuramente un attore che assume sempre più rilievo istituzionale, che è il Parlamento europeo, che prima non c'era. Non ci dimentichiamo che queste novità sono figlie di un potere nuovo che da questa legislatura è nato, che grazie al Trattato di Lisbona attribuisce al Parlamento europeo una sua voce in capitolo che prima non aveva. Lo abbiamo dimostrato anche nella riforma della PAC. Noi abbiamo completamente ribaltata quella proposta rispetto all'idea originaria della Commissione. Quindi c'è un attore in più, un attore che si sente più vicino ai cittadini, più vicino alle imprese e cerca di dare una lettura di un'Europa diversa rispetto a quella della Commissione attuale. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Parliamo invece della centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure, vicino Savona, che è messa sotto sequestro. La richiesta era partita dalla procura di Savona. Nel mirino ci sono, pensate, decine di morti sospette tra il 2000 e il 2007 nell'area. Si parla di disastro ambientale e omicidio colposo e pensate che in Europa ci sono 22.000 morti all'anno per le centrali a carbone. L'Italia è la quarta per potenza installata per quanto riguarda le centrali di carbone. Ne voglio parlare con Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria. Buonasera, Grammatico. Buonasera a voi. Cos'è, una specie di Ilva 2 La Vendetta lì vicino Savona, questo Tirreno Power? I numeri che emergono dall'indagine della procura, li citava, sono tremendi: più di 400 morti tra il 2000 e il 2007 e tra i 1700 e i 2000 ricoveri stimati per quanto riguarda le patologie cardiovascolari e le malattie respiratorie. Quindi a giusta ragione i capi di imputazione sono disastro ambientale e omicidio colposo. Ma questo, Grammatico, cioè, è una consulenza che va avanti da anni, sono verifiche, monitoraggio, improvvisamente si è scoperto che la centrale a carbone produceva disastro ambientale per l'appunto e tanti morti. Sono anni di battaglie che i cittadini, i comitati, le associazioni ambientaliste portano avanti su quel territorio. Per noi non è una novità ed è grazie appunto alle forze sociali, ai movimenti ambientali che sono stati presentate dei ricorsi, sono stati denunciate tutte le forme di inquinamento prodotte dalla centrale. Per fortuna la procura ha preso in mano la situazione, hanno effettuato delle indagini, ci sono state da parte del Ministero dell'Ambiente, di IPRA, delle indagini approfondite andando anche all'interno della centrale, dove si è verificato, in questo caso la chiusura è dovuta al fatto che l'azienda non ha ottemperato ad una prescrizione contenuta all'interno delle prescrizioni necessarie per poter funzionare, cioè quella di verificare le emissioni ai camini. Nel settembre del 2013 avrebbero dovuto entrare a una prescrizione che prevedeva il monitoraggio in continuo, cioè essenzialmente che cosa diavolo esce da quelle ciminiere. L'azienda non ha minimamente ottemperato a questa prescrizione ed è per questo che la procura ha deciso di chiudere fino a che non verranno installate le nuove possibilità di monitoraggio ai camini la centrale. Ricordo che risultano indagati per disastro ambientale Giovanni Gosio, ex direttore generale dimessosi alcune settimane fa, il direttore dello stabilimento Pasquale D'Elia e poi un'altra persona di cui non è stato reso noto il nome. Tra l'altro questo rapporto sui 22.000 morti l'anno per centrali a carbone in Europa è dell'Università di Stoccarda, commissionato da Greenpeace. Sono impianti che sono disseminati in tutto il continente europeo, compresa l'Italia, vi dicevo che è la quarta, e questo combustibile è responsabile del più di 70% di emissioni di diossido di zolfo, più del 40% di ossido di azoto, in conclusione aumento di attacchi di cuore e tumori ai polmoni. Così è successo, pare, anche appunto in Liguria, Vado Ligure, vicino Savona. Comunque avremo modo poi di risentirci per capire gli sviluppi di questa vicenda. Grazie Santo Grammatico, grazie, grazie, buon lavoro a voi. Grazie. Vedo intanto che da Palazzo Chigi arriva la notizia che le coperture per i provvedimenti domani ci sono tutte. Pare che sia una buona notizia. Staremo a vedere anche questo. Ci fermiamo per questa pausa e poi ci risentiamo verso le 22.